I CAO hanno raggiunto 400.000 accessi in 42 strutture, che poi vedremo non sono 42 strutture che tutte hanno 7, 8 mesi o 10 mesi, perché siamo partiti progressivamente. Quindi un vero bilancio sull'attività dei CAO si potrà fare solo quando tutti e 42, anzi tutti i 50, perché arriveremo a 50 alla fine dell'anno, avranno diciamo un anno di attività. La nostra previsione di drenare 500.000 accessi è una previsione che ci sembra addirittura sottostimata, perché probabilmente arriveremo anche più su. Sono strutture che di norma sono aperte H24 365 giorni all'anno senza appuntamento e sono dentro un contesto di miglioramento dell'accessibilità dei servizi sanitari sul territorio. D'altra parte i cittadini ci scrivono e questo lo sappiamo, cioè rendiamo più accessibili i servizi sanitari sul territorio, e lo facciamo in coerenza con una norma di legge che ci impone di farlo, che è il DM 77, che addirittura comprenderebbe dentro le case della comunità hub un'apertura dei servizi sanitari H24. Rispetto al 2023, che è stato l'anno in cui abbiamo registrato un'ulteriore impennata dei casi al pronto soccorso, noi oggi abbiamo una diminuzione del 20% dei codici bianchi e una diminuzione del 10% dei codici verdi. Complessivamente, rispetto all'anno scorso, una diminuzione del 7% rispetto agli accessi al pronto soccorso. Questo vuol dire alcune cose. La prima, i CAO stanno facendo bene il loro mestiere, che non è quella di fare concorrenza ai medici di medicina generale, dopo vedremo i dati, lo dimostreremo, né tantomeno quello di occuparsi di patologie di gravità importante, i codici gialli, i rossi, e azzurri. Fanno il loro mestiere fino in fondo, e cioè si occupano dei casi urgenti a bassa criticità, i codici bianchi e i codici verdi. Abbiamo anche analizzato 6.000 questionari. Qualcuno di voi è esperto in sondaggi. Avere diciamo così un campione rappresentativo con 6.000 persone che hanno avuto accesso al servizio e che hanno compilato il questionario, credo che sia una cosa importante su cui ovviamente riflettere e diciamo così meditare. Che effetto hanno i CAO sul PS? Noi partiamo dal 2019, che eravamo poco sotto al 1.200.000 accessi tra codici bianchi, codici verdi, codici gialli e codici rossi. All'epoca non c'erano i codici azzurri, che però non grande importanza, perché sono quelle diciamo situazioni per le quali anche una patologia non gravissima, però nei confronti di una persona molto fragile o molto anziana, necessita di una complessità assistenziale notevole. Ovviamente gli anni del Covid hanno visto una precipitazione diciamo degli accessi al pronto soccorso, e poi sono tornate ad impennarsi gli accessi, tant'è che noi ci vediamo dal 2022 e dal 2022 parliamo di pronti soccorsi che stanno esplodendo, no? E infatti eravamo in crisi nel 2022, eravamo ancora più in crisi nel 2023. Nel 2024, il rapporto con l'anno prima, vedete una diminuzione del 7% complessivo degli accessi. Questo significa che adesso al pronto soccorso stanno bene, sono larghi e hanno, come dire, agio i medici, infermieri, perché non ci va più nessuno? Assolutamente. Cioè, questo vorrei essere chiarissimo. Siamo all'inizio di un percorso di riforma e siamo all'inizio dei primi positivi risultati, ma se andiamo nei pronti soccorsi vedremo ancora un afflusso molto importante, molto pressante e anche molto sfidante e a volte anche sfinente per i dipendenti che ci lavorano. Però io non farò nessuna polemica, nel senso, non aspettatevi da me una polemica, da me aspettatevi le informazioni giuste, la verità diciamo dei dati. Continuate a informare i cittadini che i CAO esistono e che nella bassa complessità in urgenza sono risolutivi dei problemi. I medici di medicina generale per il 21% informano i loro pazienti che in caso di urgenza, quindi evidentemente non c'è tutta questa ostilità da parte dei medici di medicina generale nei confronti dei CAO, anzi li hanno visti come un ulteriore elemento diciamo di potenziamento della rete territoriale.